Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Le modificate? Certo. Perché certo? Fanno più veloce. Se può modificare variature, se può mettere il cambio, devo mettere il motore da 125. Che mi raccontate qualcosa di queste macchinette? Io me l'hanno rubata, un'altra ci ho fatto un botto, quindi... Questa è la terza? Sì. Di fare la fighetta così con la macchinetta, con la musica alta. Fa figo. L'hai pagata? È un regalo per il compleanno. Perché... Può fare un primo piano alla mia mamma? Quanti anni c'hai tu? 15. La macchinetta l'ho pagata 9.000 euro. 12.600. Ti hanno regalata? Sì. Vado bene a scuola. Tutti 4 e 5. Quanto costa? 20.000 euro. 20.000 è un po' troppo. Alla fine sì. Figa è figa. Mi fate fare un giro su sta macchina? Fare un giro? Io allibisco, questo è il rumore della moto zappa. Che ci sarà di figo andare in giro per la città con un mezzo che fa il rumore di una moto zappa. Sarebbe più estrapolante da ogni luogo comune andare in giro con la moto zappa. Allora sì che non ti noterebbe, no? Con queste macchinette che sono in realtà dei bidet con le ruote che fanno questo rumore orrendo, perché probabilmente hanno il motore di una moto zappa montato sopra, di una motofalce o di un motocoltivatore, hanno un motore di tipo agricolo, perché infatti nascono le microcar come macchine di sussidio per persone che hanno problemi, persone molto anziane, persone con dei problemi fisici, persone che non hanno la patente. Andavano in gran voga in località ad alto tasso di malavita organizzata, quando ai mafiosi toglievano la patente e pigliavano la microcar. Il boss andava in giro con la microcar. Ma questo quando furono inventate. In altri paesi più civili del nostro, nelle microcar ci vanno gli umarell, gli anziani, le persone vogliono stare tranquille, vanno pian piano per la loro strada, 45 massimo all'ora, perché questo permette appunto il codice della microcar, si fermano, stanno attenti. Invece no, le microcar oggi sono una iattura, un pericolo pubblico. E qui confermerò adesso l'accusa infamante che mi è stata fatta pochi istanti fa da Fabrizio Intonti di essere diventato ferocemente maschilista. Però devo dire che fra le disgrazie che possono accadere a un utente della strada, la numero uno è naturalmente l'umarell col cappello o la suora che guida, ma che è molto sempre meno probabile comunque di incappare nella signora finta bionda con il cellulare all'orecchio che guida naturalmente una smart. Ecco, la signora finta bionda con la smart cellulare è qualcosa che corrisponde a morte quasi certa, ma dopo questa immediatamente è il ragazzino con la microcar, con lo stereo a palla che tremano i vetri della tua automobile, con il rumore della moto zappa, con l'aria da strafottente fighetto che non conosce assolutamente il codice, quindi in bocca ai sensi vietati, non passa ai semafori, fa di tutto, con magari un altro ragazzetto vicino spaparanzato che tiene i finestrini aperti e sporto fuori. Questo è il massimo della disgrazia che può uno capitare. Oggi c'è Massimo Lugli che sulla cronaca di Roma di Repubblica fa una pagina intera sulla microcarmania, raccontando che il comune di Roma sta avvicinandosi alla tolleranza zero, stanno facendo uno screening su queste microcar, una su tre è totalmente illegale, perché appena le comprano i ragazzetti, costano sui 12.000 euro, vabbè, fatti loro, non è che ho invidia dei ricchi, se uno può comprare un'automobile a 12.000 euro, un ragazzino che fa il ginnasio per farlo contento, e andate fuori dei ginnasi e dei licei romani, vedrete parcheggi pieni di microcar, all'uscita escono tutti e montano alla macchinetta, tutti fighi come se avessero una Ferrari, montano dentro questi bidet a manovella, si mettono la ragazzetta vicino e quanto sono fighi, strafighi. Ci fosse uno che va in bicicletta, che ha uno straccio di motorino, no, quelli sono da sfigati, bisogna avere la microcar. Beh, una su tre di queste microcar è totalmente illegale, perché hanno dei motori potenziati, come avete sentito prima l'intervista di un meccanico che parlava da un canale YouTube Phil Film, che è un canale che appunto racconta vicende del mondo giovanile, e quindi le stanno sequestrando perché i ragazzini le rendono dei mostri che non dovrebbero nemmeno circolare. Già andare in due con una microcar non è possibile, perché dovrebbe essere equiparato a un motorino, invece già ci vanno in due e le mamme dicono: ah, poverini, così non si bagnano, così non sentono freddo, si sa, possono socializzare, e via dicendo. Sì, però mandi in giro degli oggetti contundenti che se ti vengono addosso loro si fanno malissimo, ma anche tu potresti avere dei problemi, perché non è come esattamente essere investiti da un motorino o da una bicicletta. 800 24 00 24, vi hanno già chiesto i vostri figli di comprargli la macchinetta? Che ne pensate delle macchinette? Avete le mani in pasta in qualche affare di macchinette? Producete, modificate, realizzate dei bolidi alle macchinette? Ultima cosa, ho notato, leggendo con attenzione la rassegna stampa, questi ragazzini nei sistemi di elaborazione della loro macchinetta, un oggetto di culto, mettono il cambio abbassato con il teschio al posto del pomello. Beh, lo facevano i burini negli anni 60 con le 500 Abarth, a cui abbassavano le ruote rigirandole, alzavano dietro il coperchio del motore, mettevano una marmitta smarmittata e mettevano il teschio di plastica avvitato al posto del cambio e diventava un bolide. Possibile che essere trasgressivi significa fare quello che facevano i vostri nonni? Esattamente la stessa cosa, il cambio abbassato con il teschio. Qualcosa mi fa venire i brividi. 800 24 00 24, tra un istante. Melog, cronache meridiane. Devi comprare motore, devi comprare ruote, devi fare assetto, pompa della benzina, variatore, marmitta, cinghia e la modifica. Gli ho alzato il pedale, ho levato i diaframmi e ho aperto la pompa. Ma quanto arriva? 80. 80. 90-95. Che c'ha di bello più di altre? La macchina. Tutti i pezzi che hai messo tu? Sì. Paraurti quanto hai pagato? 300. Specchietti bianchi e neri? 20. 20 euro l'uno? Sì. Impianto, subwoofer, amplificatore e casse. 500. Ma la macchinetta, a parte andarci in giro, vi serve pure per gli incontri amorosi? Beh, per scopazzi, Quante macchinette non modificate esistono in circolazione? Che ne sapevo? Se sti ragazzini fanno vedere come fanno a scopare dentro una minicar, vi giuro, gli regalo una bicicletta. Ma fatemi vedere come fate, perché avete il volante, lo sterzo attaccato allo sterno. Ci saranno se no 20 centimetri. Tutto si può fare, figuriamoci. C'è chi lo fa in situazioni ben più disperate. Ma vi giuro, fate prima affittarvi una stanza che spendere 500 euro di subwoofer per star dentro un bidet di plastica. Mettetevi una cuffietta, che ci fate col subwoofer così? Ma nemmeno a casa. Un paraurti 300 euro, ma vi ci comprate due biciclette a testa con 300 euro? Mica per niente. Mi sembra di essere un vecchio a fare questi ragionamenti. Maurizio, buongiorno. Oh, buongiorno a lei, signor Nicoletti, buongiorno a tutti. Guardi, io entro in argomento perché, avendo fatto il collaudatore per tanti anni per un marchio italiano, quelle macchinette lì le ho guidate, le ho provate, c'è da fare il segno della croce. Ma lei dice preparano i motori, ma i freni e l'assetto di quelle macchine lì non esiste. Se lei esce da un incrocio, c'è veramente da metterci il pelo sullo stomaco. Fortunatamente qui da noi sì, non sì, ma sono fatte per andare a 40 all'ora, non per andare a 110, questo no, è il problema. Ma anche a 40 all'ora, mi creda Nicoletti, anche a 40 all'ora, uno di quei papà lì che compra la macchina al ragazzino per non fargli prendere l'acqua perché va bene a scuola e così, è un suicidio, mi creda, è un suicidio. Sono dei motocoltivatori, dei goldoni motocoltivatori con la scocca. Allora c'ho ragione io, il motore della moto zappa praticamente. Esatto, è di un motocoltivatore goldoni, diesel bicilindrico. Vedi, io che vengo dalla campagna l'ho riconosciuto subito, era l'infamante rumore della moto zappa. Esatto, allora la moto zappa ha dei rapporti cortissimi, quindi hanno allungato i rapporti e va qualcosina di più. Ma quelle modifiche lì, ammesso e concesso che non siano regolari come tutte le cose modificate, ma veramente quelle macchine lì anche a 40 all'ora, mi creda, cioè veramente c'è da metterci il pelo sullo stomaco a salire. Io le ho collaudate, le ho provate, ne ho venduta qualche d'una, ma a chi gli avevano portato via la patente? A dei signori adulti, persone che non possono farne a meno perché devono comunque muovere. Bravissimo, ma però le posso garantire che uno normale dice qui ragazzi, c'è cioè un anziano che va pianino pianino in una strada tranquilla, no, in un paese, è pericoloso, anche è pericoloso per lui. Nicoletti, se lo lasci dire, io non voglio, ma perché le hanno inventate allora? Perché uno ha inventato qualcosa di pericoloso? È un business economico. Ecco. Lei non ha un'idea dei ricambi di quelle macchine lì. Se lei picchia via una, a parte che ha il costo di una Y, di una 500, di una Yaris, quindi uno già che compra una macchina così è matto, però lei non ha un'idea che con 20.000 euro uno ci compra una macchina nuova, bellissima. Sì, no, ma a 13.000 o a 10.000 lei compra una bellissima utilitaria di qualsiasi marca. ma i ricambi di quelle macchine lì, la meccanica di quella macchina lì non può essere una, cioè, la macchina con cui vado in giro con la famiglia da almeno 4 anni l'ho pagata questa cifra. Poi la danno in mano a dei ragazzi che sono costati dei capitali a tirarli grandi, non si rendono conto di cosa rischiano queste persone. 300 euro un paraurti, ma siamo pazzi. No, ma lei provi a picchiare via una macchina, provi via, vai in mille pezzi. Perché sono tutte di plastica, pezzi. Un pezzo di plastica unico praticamente. Vai in mille pezzi, il portogoldoni è più resistente. Ma penso. Quindi ha messo su una scocca di vetroresina, la fanno pagare 20.000 euro, 15-13, ma fortunatamente, torno a ripetere, qui nella Bergamasca non ne girano assolutamente. Ecco, lei ha un po' di esperienza su quello che è, diciamo, la mappatura. 5 anni di lavoro nelle automobili. Sì, ma diciamo in Italia, dov'è che è considerato un genere fighetto, dove invece normalmente è un piccolo bidet a pedali da usare così, proprio in situazione di emergenza? No, ma con rispetto per il bidet, mi perdoni, perché il bidet ha una certa utilità, quella lì non serve a niente. Va bene, molto utile, molto utile. Andiamo allora al tecnico che in questo momento può in qualche maniera corroborare il nostro ascoltatore. Ingegnere Enrico Pagliari, buongiorno. Buongiorno. È coordinatore dell'area tecnica ACI. Come, in che maniera, attraverso quali strumenti vi siete posti il problema voi delle macchinette, delle microcar? Ma ce lo siamo proposti in ambito Euro NCAP già dal 2014 e abbiamo fatto dei test specifici per questo tipo di macchine, un scontro frontale a 50 km orari e uno scontro laterale con una barriera lanciata contro il veicolo sempre a 50 km orari. Nessuno di quattro modelli testati, quattro modelli tra i più venduti in Europa, ha superato il test. Quindi regalarlo a un figlio vuol dire tirarne fuori marmellata, sì. Se va a sbattere. Sì, tutto corretto quello che avete detto, in modo anche molto colorito. Nel 2016 abbiamo ripetuto il test sui quattro modelli dopo che avevamo raccomandato ai costruttori di porre attenzione. Ma infatti, ingegnere, io mi ricordo, veicoli. Ne parlammo qualche anno fa e elencammo tutti i limiti che c'erano, come dice l'ascoltatore. Purtroppo sono equiparati ai motocicli e quando vengono omologati non vengono richiesti, per esempio, i crash test che vengono richiesti alle autovetture che portano. Ma come fa, persone, mi scusi, io, se... la mia ignoranza abissale, chiedo a lei conforto, come fa a essere omologato come un motociclo, un'automobile che ormai occupa uno spazio fisico come una smart, come una piccola utilitaria a tutti gli effetti, è un parcheggio una macchina, nella strada è ingombra quanto un'altra automobile, come fa a essere recuperato a un motociclo? Purtroppo ci sono degli interessi dietro molto forti. Allora c'è un'azione di lobby talmente forte che nessuno della politica si prende, si vogliono salvare i giovani da tutti i problemi del mondo, da tutti i pericoli del mondo. Qualcuno fa battaglia anche perché non si infinocchiscano andando a scuola, ma nessuno pensa che ne muoiono a tonnellate in questo tipo di automobilina. Avete un'idea di quelli che sono gli incidenti con le microcar? Io adesso non ho davanti i numeri, però le posso dire che quando le abbiamo analizzati abbiamo visto che sicuramente è un pericolo, c'è un rischio di rimanere morti o feriti che è 5 volte superiore a quello di avere un incidente con un'auto normale, quindi se ho un incidente con un'autovettura normale, un incidente con una microcar, 5 volte di più la probabilità di rimanere ferito o peggio morto. Ecco, i genitori le comprano. Ma perché... guardi, io volevo sottolineare un'altra cosa. Nei test che abbiamo fatto, ancorché come dichiaravate voi, questi veicoli non dovrebbero superare i 45 km orari, un modello di quelli testati in ambito Euro NCAP è arrivato a 110 km all'ora. Senza elaborazione, così di fabbrica. Senza elaborazione, però ecco, volevo sottolineare questo della elaborazione. Io me la prendo con i genitori, i meccanici che lo fanno, che si prestano a questo tipo di gioco. Cioè questo veicolo già non è sicuro quando esce dalla fabbrica, ce lo diceva l'ospite precedente. Però nessuno si è mai preoccupato di bloccarne, diciamo, la vendita. Cioè se io produco un frullatore, un tostapane non sicuro e qualcuno segnala un incidente, viene ritirato dal mercato. Per le microcar non si è mai mosso nessuno. Sì, diciamo ci sono stati parecchi vedi incrociati, perché noi come Automobile Club consigliamo a quel punto, invece delle microcar, di prendere, dico, due dei modelli, una Smart, una Panda, farle meno potenti e farle portare senza patente. Secondo noi la soluzione può essere uno sarebbe più sicuro, una utilitaria. Ha superato i test di sicurezza che vengono richiesti. Perché non hanno freni, non hanno servosterzo, non hanno nessun sistema di sicurezza. Sì. Che freni hanno? I freni di una moto hanno? Un freno a tamburo? Probabile, sì, sono freni a tamburo. Ce n'è qualche modello più evoluto che comincia a montare i freni a disco, però la maggioranza dei modelli ha i freni a tamburo. Quindi una se pensiamo che anche l'utilitaria più economica comunque delle centraline, dei sistemi di sicurezza ha una frenata, diciamo, che sì, dovrebbe salvare la vita, loro non c'è nessun problema. Io le dico quello che dicemmo, che abbiamo ribadito in tutti e due i comunicati quando siamo usciti con questi risultati sui crash test. Chiedevamo ai costruttori di investire in sicurezza. Se proprio volete seguitare a fare questi veicoli, investite in sicurezza, e chiedevamo agli organi, ai governi, di proporre degli standard di omologazione più severi di quelli che ci sono adesso. Nessuno lo fa. All'estero, lei che sappia, ingegnere, sono trattate alla stessa maniera le microcar come in Italia? O è un fenomeno nostro, nazionale? Sì, no, è un fenomeno, noi l'abbiamo analizzato a livello di regione europea, quindi quello che c'è in Italia. Quello che c'è da dire, in Italia c'è un uso, una diffusione in ambito urbano maggiore che all'estero. All'estero, come dicevate voi, c'è più attenzione, viene utilizzato dall'anziano che magari ha altri problemi. È un veicolo d'emergenza. In città è un fenomeno tutto delle grandi metropoli italiane, delle città più grandi italiane, ma di moda al giovane andare in giro con questo. Lei se va davanti a qualsiasi liceo romano, dico Roma perché è la città in cui abito, sentiamo se dall'altra parte d'Italia, in orario scolastico ci sono centinaia e centinaia di microcar. È indubbio che ormai l'abbiano quasi tutti, non è più soltanto dire soltanto i ragazzi dei quartieri privilegiati, no, ormai ce l'hanno tutti, le famiglie si indebiteranno, non so come faranno, ma comunque questa cifra è una cifra ingente. Ma perché costano tanto, ingegnere? Proprio perché c'è molta richiesta del mercato. Perché il valore di mercato quale sarebbe di una microcar? Il valore di mercato per come è fatta? Quello di un motorino è poco più. Ma dovrebbe costare un po' più di un motorino, diciamo il doppio del motorino, perché da due ruote si passa a quattro, dovrebbe costare il doppio del motorino. Sì, quindi 5-6 mila euro massimo, sì, esatto. Proprio massimo a dire tanto, no? 20 mila euro. Ci fermiamo un istante, grazie ingegnere, a tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Melog, cronache meridiane. Hanno dei motori Lombardini, che sono quelli delle moto zappe, che sono facilmente truccabili, dovrebbero andare a 40 all'ora, invece vanno a 80-90, non reggono la strada, costano molto di più di una Smart. Per carità, sono tutte smarmittate, parcheggiate in tripla quarta fila a go-go, musica a dei volumi. Ma gliele sequestrassero tutte quelle truccate? Sono tutti i ragazzi della Roma Nord. E sono incontrollabili. Ieri finalmente ho visto una gru per la prima volta in 10 anni che abito qui, che stava sollevando una vettura da portar via. 800 24 0024, il problema delle microcar. Parto lo spunto dall'articolo di Massimo Lugli oggi sulla situazione romana. 16.000 microcar nella capitale romana, costano 20.000 in media a pezzo, dovrebbero andare a 45 all'ora, ma arrivano a 115 all'ora. A Roma hanno cominciato la tolleranza zero, cioè a sequestrare quelle che non sono in regola. Mi scrive un ascoltatore indignato, leggo il suo sms, bla bla bla bla bla. Il problema è che affronta l'argomento sempre da intellettuale che non scende dal piedistallo e sa comunque la verità lei, chissà perché, o è un preparatore di microcar o l'ha regalata al figlio e non vuole ritornare sulle sue decisioni. Come fanno a scopare di dentro questi ragazzini? Che educativo Nicoletti, certe volte è insopportabile, una frase che dice molto, un disastro, è sordo praticamente, fa finta di dare ascolto. Ciao Enrico, se vuole parlarmi la stiamo cercando, così mi spiega esattamente niente, perché è un disastro. Dico, sicuramente un ragazzino, se tu compri la microcar per scoparci dentro, tutti, quando avevamo la patente, la prima alcova è stata la nostra automobile, ma erano anni passati. Oggi costa meno mettere insieme tre ragazzini e affittarsi un appartamento. Lo fai tranquillamente, lo fai in sicurezza, lo fai come Dio comanda e eviti anche di rischiare qualcuno ti rapini o ti faccia cose sgradevoli quando sei inquattato chissà dove con la microcar e con la ragazzetta dentro. Detto questo, sentiamo Daniele. Daniele, buongiorno. Sì, buongiorno. L'ascolto. Nicoletti. Salve, io volevo capire questa trasmissione se si sta facendo un, come si può dire, un processo a un oggetto o se diciamo si va a individuare quelli che sono dei fuorilegge. Perché? Le spiego. Io sono stato responsabile vendite in un negozio di moto e macchinine anche, sicché qualcosa me ne capisco. Beh, lei le vendeva, sai, come dire all'oste se il vino è buono, è chiaro. No, le vendevo, sicché adesso non ho più interesse, non... Soltanto che al figlio gliel'ho comprata. Ora io volevo chiedere. Lui è liberissimo di comprare al figlio, come certo, sono altrettanto certo. Libero io. Se sento il coordinatore, non mi scusi, dell'area tecnica ACI, mi dice hanno fatto tutti i crash test e viene fuori che è una macchina pericolosa a priori. Che devo dirle? Io infatti volevo proprio dire quello. Volevo chiedere all'ingegnere, no? Che ha intervistato prima, ma a 14-15 anni lui a suo figlio gli compra una Smart? Cioè, se a 50 all'ora si va a sbatacchiare in un muro, come si dice lì da noi, non credo che ci si faccia più Oddio, male. Può andare anche a piedi, ragazzina a 15 anni. Non c'è un obbligo etico, morale, religioso che il figlio abbia la macchina a 14 anni, scusi. Ma se io uno voglio figlio, in un certo modo e in maniera legale, indipendente mio figlio per andare agli allenamenti del calcio anziché a scuola, ma lei è liberissimo, o gli compro un motorino... O gli compro una macchinina, giusto? O gli regala la tessera dell'autobus, c'è anche questo. Anche si potrebbe fare anche così, ma la legge mi permette di comprargli un motorino e di fargli prendere il patentino. No? Detto anche che questi ragazzi, multiamoli e sequestriamogli le macchine, allora, cioè, sono truccate. Scusi, che poi Daniele, non fanno... mi dica. Sono due gli ordini, scusi. Primo, ognuno è libero di fare quello che vuole a casa sua, e quindi lei è liberissimo e non sindaco la sua scelta. Sono macchine che nella versione elaborata sono contro la legge, quindi fanno bene a sequestrarle, ma anche nella versione omologata viene fuori comunque dai test sono stati fatti, sono macchine comunque pericolose. Il fatto che nessuno intervenga con uno strumento legislativo per chiudere la vendita permessa di macchine pericolose, andrebbero fatte macchine sicure. Lei, essendo un esperto del settore, sa perfettamente che anche una macchinetta del genere va a 45 all'ora, c'è un margine di pericolo. Lei avrà valutato che secondo lei è meno pericoloso che abbia la minicar che il motorino. Avrà un discorso responsabile con suo figlio sa che deve andare piano, deve essere prudente, quindi... Vabbè, ma scusi, non mi dica, cioè non mi metta in bocca le cose, no, immagino... io voglio dire altre cose, Nicoletti, lei è una persona, però deve fare la sua trasmissione, e questo lo capisco, però, allora, prima di tutto, le macchinine, glielo dico da tecnico anche, le macchinine, una volta che si comprano, devono fare 45 all'ora e lo fanno, se vengono tolti dei fermi al variatore o a qualcosa, fanno 15 all'ora in più, allora io le dico... Non c'è, facciamo una percentuale, uno su 10.000, io che ho lavorato nei motorini, uno su 10.000 il genitore gli mantiene i fermi al motorino, cioè il motorino fa meno di 50 all'ora. Se si levano i fermi fa 65, di conta chilometri del motorino, che poi effettivi non sono neanche 60, lasciamo perdere. La macchinina è la solita cosa. Se uno la fa arrivare a 90, a 100, a 110, è perché ci ha speso almeno 3 o 4 mila euro sopra. E i ragazzini, che non sentono Radio 24, ma se c'è qualcuno che sta sentendo, sa di che cosa farlo. Ma sì, allora, l'abbiamo già detto. Vanno sequestrate. E siamo d'accordo. E come va sequestrato i motorini, che sono senza fermi e fanno 65 all'ora. Non ci piove, su questo vi trovo d'accordo, qual è il problema? Sicuramente più pericoloso. Io sono motociclista da sempre. Un motorino è sicuramente più pericoloso di una macchinina se uno indossa la cintura e indossa il casco col motorino. Questa perché è un impatto a 50 all'ora in un muro con il casco, il cervello dentro al suo liquido... No, cioè, sì, è più facile morire che no. Signore, il motorino è un mezzo omologato... per l'uso che ne viene fatto. Ma la macchinina è omologata. Sì, però è sbagliato. Sì, però il motorino è omologato, ha dei freni che funzionano, se no altrimenti non viene messo in vendita. Come freni funzionano? funzionano, c'ha due ruote, si può solo bloccare e scivolare in terra, sì, cosa che con la macchinina non avviene, pericolosa per un pedone. Ma anche la bicicletta allora è pericolosa, ma anche andare a piedi è pericoloso. Scusi, lei sta facendo un discorso che non ha senso, mi scusi, lei mantenga la sua posizione, il suo punto di vista, mi permetta di esprimere il mio. Non è la guerra fra motorino e macchinetta. Il motorino comunque è un mezzo che esiste, la moto esiste, le persone vanno a due ruote, le persone vanno prudentemente a due ruote, rischiano meno di uno che va non prudentemente su una macchinetta. Le persone vanno a due ruote, sanno che comunque in un traffico intenso le due ruote sono pericolose, evitano di andare nel traffico intenso. Uno fa una scelta, non è il male che giudica meno nefasto per suo figlio, dice che la macchina salva di più, non è vero, sta dicendo una cosa non vera, perché no, è vero invece. No, tutti i test hanno fatto. Io l'unica cosa sono d'accordo con l'ingegnere che ha parlato prima, è quella che, ma a 50 all'ora ha fatto il test con una persona Lei ha provato a correre a 15 all'ora e sbatte la testa su un palo, quanto si fa male? Mi scusi, ma che vuol dire questo? Fa male lo stesso. Allora che faccio? Non vado a piedi? Ma si sta criminalizzando. Guardi che io poi tra l'altro... Sì, la criminalizza, permette. La criminalizza. Voglio ribadire e voglio che è un mezzo non sicuro. A 100 all'ora le macchinine... Vabbè, senta signore, lei le vende, l'ha vendute e l'ha fatto la sua scelta. Mi sta bene. E questo è il suo punto di vista, non è che le posso dare più spazio. Arrivederci. Giorgio, buongiorno. Salve Gianluca, sì. Buongiorno. Le volevo dire questo, allora i prezzi non mi tornano, io sono un genitore di una figlia con macchinetta. Sono perfettamente... Sì, ma posso fare una premessa? Non vi sentite sotto accusa? O semplicemente, oggettivamente... No, l'ho capito, detto io sono macchine pericolose, quindi, fine, poi basta, ognuno faccia quello che vuole. I temi che lei lancia sono sempre molto attento. Le volevo dire questo. Non appunto. È che io ho interesse a criminalizzare le macchinette perché vendo le motociclette. Quando mi dice un ingegnere che fa di questo di mestiere con un ruolo ufficiale, istituzionale, sono pericolose comunque, anche nella velocità consentita, abbiamo fatto tutti i test, la persona esce morta o gravemente ferita. Questo è un dato oggettivo, poi ognuno fa le sue scelte. Non posso fare a meno di dirlo, scusi. Questo non è che per me esco di qui e dico ho fatto la battaglia per le macchinette come se fosse un'ideologia politica. A me è indifferente, ma comprate quello che volete ai vostri figli. Però vi do un'informazione, magari ne sapete qualcosa in più. No, certo, prego. Questa mi preoccupa un po' di più perché appunto senza aver forse valutato tutti i dati, anch'io, mia moglie e io la ritenevamo più sicura, tra virgolette, anzi meno pericoloso del motorino, ma questo comunque lei mi sta dicendo di no. Ma che io mi creda, anche io pensavo la compreranno, ecco, perché almeno si fanno meno male. Si fanno meno male. Sì, ma poi quando mi dice l'ingegnere dell'ACI non è affatto vero che si fanno meno male. Si fanno male lo stesso e quindi è una scelta, poi dice vabbè, magari non si bagnano per la pioggia, però si fanno male lo stesso. Un po' di freddo, un po' di acqua, perfetto. Anche non la compagnia. Però non vi illudiate che se vanno a sbattere si fanno meno male, solo questo. No, ma sai qual è la follia però? Sono d'accordo, però non è che i ragazzi vanno dal meccanico, perché qui stiamo parlando di sedicenni, quindicenni, sedicenni, e se la fanno modificare. Per me è una pazzia della massa, perché effettivamente è tanta, di genitori che autorizzano questo. L'assicurazione non riconosce nulla, si è colpevoli di fronte... Cioè, i 3.000 euro, chi gli dà ragazzino per farle elaborare? Non è che appunto, se li trova... Questa mi sembra una pazzia, in questo contesto, veramente, questo mi sembra folle. Guardi, lei, genitore... la sua è una posizione che io apprezzo, in quanto è giustamente equilibrata e basata su dati oggettivi. Lei dice, io l'ho comperata, è omologata, e mio figlio non gliela faccio elaborare, apprendo ora e aumenta il mio margine di preoccupazione, ma per me comunque è sempre meno pericoloso con motorino, del fatto che comunque anche omologata è un mezzo non sicuro. Però è chiaro, se il genitore poi cede dopo aver ceduto alla domanda dell'acquisto, consenziente gliela compra, anche all'elaborazione della minicar, è un genitore criminale, perché da questo punto di vista dà uno strumento veramente pericoloso in mano al figlio. Penso che lei non l'abbia fatto, quindi mi sta bene. Livio, buongiorno. Livio è caduto, c'è un altro Livio? No. Lorenzo. Ah, pronto, buongiorno, salve. Io all'epoca, quando ero giovane, un po' più giovane, avevamo motorini e APCAR potentissime che facevano tranquillamente 100-110. Sicuramente erano molto più difficili da guidare che le microcar perché avevano tre ruote, erano comode in quanto avevano il cassone. Lei di dov'è? Perché in Emilia Romagna c'è molto questa moda della APCAR. Sì, io parlo di più di 20 anni fa. Sì, andavano molto di moda gli apetti, che era un mezzo da trasporto promiscuo negli anni 60-70. A un certo punto è diventato di moda, l'avevano fatto carino, la APCAR era carino, era. Sì, era personalizzabile. Però l'ape si rovescia, si ribalta come niente. Si rovesciava, ci picchia se si rovescia. Si ribaltano gli api, fatta apposta. Ecco, Anch'io avevo un motorino potentissimo, addirittura legavo le taniche di benzina dietro il portapacchi e si facevano cose inimmaginabili. Le stronzate fatte da ragazzino, se le racconto le mie, ma restano immediatamente. Anch'io avevo motorini, anche sì. A me piace elaborarli. Mica dico, non è che faccio quello che nella vita ha fatto solo cose eque e solidali. No, anch'io alla mia età andavano in moda i motorini, facevamo delle cose terribili, avevano dei motorini 50 che arrivavano a 150 all'ora, rischiavamo la vita, lo so benissimo. Però ieri come oggi c'è sempre la passione di poter modificare, personalizzare. Quello che manca in Italia, secondo me, anche per nell'ambito motociclistico, che è solo in Italia, è il poter modificare la moto o la macchina rendendolo anche più sicura. Cioè, se io metto un freno più potente sulla mia moto, la motorizzazione riesce, me la fa passare? Cioè, io qua in Italia non credo. Mentre se si va all'estero, cioè, molte persone vanno all'estero, in Germania, a Londra, per farsi omologare delle moto anche fatte... Ma io penso che i freni in una moto, uno vende, trova un freno molto potente, cambia il freno, mette un freno a disco potente, mette un freno... Sì. Penso questo si possa fare. Forse dovrà ripassare l'omologazione, a meno che siano componenti già omologati, uno cambia la forcella tranquillamente, È molto difficile, ci sono molti paletti, tanto le dico che molte persone facendosi costruire una moto di sana pianta, scegliendo il telaio, le ruote, vanno in Germania a omologare, cioè costa 2-3 mila euro. Mi sta evidenziando però un paradosso, abbiamo un codice così rigoroso che uno non può costruirsi una moto con componenti super sicuri, super omologati di fabbrica, esatto. Comprando il telaio, sì. Da questo, la forcella da quell'altro, esatto. Il motore, che sarebbe fantastico, può usarci una moto che può andarci a fare le gare sulle piste ma non andarci per strada, esatto. Ma... le dico, molti di questi pezzi sono TÜV, omologati TÜV in Germania, ma certo, chiaro. Però io non posso omologarlo con Italia, quindi devo portare la moto in Germania e farlo omologare. Però lo stesso codice fa passare come omologate le macchinette che non hanno i criteri di sicurezza necessari per circolare. Questo è il paradosso. Ci sono degli interessi. Io penso che potendo liberalizzare questo mercato, i meccanici sarebbero contenti, chi vende pezzi sarebbero contenti, gli acquirenti sarebbero contenti. Sì, però bisognerebbe anche essere sicuri che per strada circolino mezzi sicuri, perché il rischio è per tutti, anche per gli utenti che stanno accanto e circolano accanto alle persone con mezzi pericolosi. Fermiamoci un istante, tra poco. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta Melog, cronache meridiane. Buonasera signori e signori, presentiamo la Demeno Minicar con neon laterali, impianto con subwoofer da 500 watt che vediamo qui. Beh, questa è l'esperienza del subwoofer dentro la macchinetta. Credetemi, non è il discorso da persona con il cervello ormai collocato in una sorta di ancien regime, per cui ha vergogna e schifo ciò che fanno i giovani, ma si divertono i ragazzini. Avessero delle minicar super sicure, ma sarei felicissimo se le comprassero. Ma dovesse macchine con i freni che frenano, con uno sterzo con tutto costruito a regola d'arte, con un motore che non permette di andare più veloce di quello che è la legge, perché rappresentano un pericolo anche per gli altri che guidano. Detto questo, ho fatto le peggiori nefandezze sulle due ruote quando ero ragazzino. Io non posso dire nulla, ma che vuol dire? L'esperienza e l'età passata mi fa dire che queste cose erano pericolose. Dicessi quello che ho fatto io con moto e motorini nei lunghi inverni in cui si poteva circolare, avevamo mano libera di montare, rismontare, cambiare i pezzi, ma nemmeno ve lo sto a dire. Paolo, buongiorno. Buongiorno dottor Nicoletti, buongiorno a tutti i telespettatori. Io sono assolutamente d'accordo con l'impostazione della sua trasmissione. Ho 39 anni, appartengo alla generazione di quelli che avevano il motorino, non l'ho avuto, ringrazio i miei genitori per non avermelo comprato, ho campato benissimo lo stesso, ho fatto tutte le mie esperienze anche se non le ho fatte in macchina, ecco, intendiamoci. Quello che voglio dire è che io sono di Roma, Roma è invasa, c'è un'epidemia di queste microcar, il problema non è nelle lobby. 16.000 sono tante. Sono tante, sì, 16.000. Poi sono concentrate nel centro storico e non è che le trova in giro. Sono concentrate nel centro storico e a Roma Nord. Roma. A Milano ho visto la stessa cosa, io viaggio tanto per il lavoro, all'estero non c'è questo fenomeno. Le macchine dal punto di vista qualitativo, come avete detto, e di sicurezza, sono assolutamente inadeguate. C'è un problema, il problema non sussiste nella lobby dei costruttori, non c'è nessuna lobby né dei meccanici. Qui il problema è rapporto genitori-figli. I genitori sono sotto ricatto psicologico da parte dei figli per una questione di presunta sicurezza. Una volta c'è ancora ovviamente il motorino, il genitore ha sempre avuto la paura che il figlio cadesse e si facesse del male. Con le quattro ruote ha una giustificazione, si autogiustifica del fatto che il figlio abbia meno problemi. Non so se lei si ricorda, generazionalmente più vicino a me, quando si diceva al figlio: ti compro la Vespetta perché il motorino da cross è pericoloso, cadi, ti fai male, così ti prendo la Vespetta, è più sicuro. Che alla fine era un palliativo, perché era altrettanto, se uno va a sbattere, certo, va a cadere, si fa male lo stesso. Però dava l'aria, certo, meno aggressiva, più tranquilla, più sicura. Ancora c'era il ricordo della Vespa che aveva in qualche maniera, certo, meccanizzato gli italiani che prima andavano in bicicletta. Va bene, grazie Paolo. Alessandro. Pronto? L'ascolto. Allora, io sono molto vicino a lei come età, sono un motociclista ancora in servizio permanente e quelle macchine sono delle trappole. Io farei vedere prima ai genitori i filmati dei crash test, perché non ci si sopravvive. Quelle macchine sono nate per... Me l'ha detto un ingegnere dell'area tecnica dell'ACI, non è che ho chiamato un meccanico sotto casa. No, infatti. Dice, no, si muore, non ci sono santi. Con quelle macchine si muore e basta dentro quelle macchine. Ma è una piccola bara in vetroresina, che devo dire. Ma Nicoletti, sai come sono uscite fuori quelle macchine lì? Quando sono cominciata la patente a punti e la gente ha cominciato a perdere la patente, ancora non c'era il patentino. Certo. E quelle si potevano guidare senza... È per quello che io feci una trasmissione molti anni fa, venne fuori che nelle regioni ad alto tasso mafioso, tanto è inutile dirlo, tutti i boss a cui toglievano la patente o gli scugnizzi a cui toglievano la patente usavano la macchinetta, ma era la macchina di ripiego di quello a cui avevano tolto la patente per motivi di sicurezza, o quelli a cui toglievano la patente per problema dei punti, problema della guida pericolosa, usano la macchinetta, come gli anziani che non gli davano più la patente continuano a girare con la macchinetta. Esattamente. Nasce così. Ma non è che questa cosa però non venga dal nulla, perché nell'Emilia Romagna o in Toscana l'Apino truccato esisteva già, sì, e non è che siamo Valentino Rossi faceva le corse con gli apetti truccati, si vede. Esattamente. Ma lei se lo ricorda il Sulky, la prima microcar che era orrenda. Assolutamente, scusi, il grande Casalini che ha inventato il Sulky e tutte queste cose. Che è una specie di ape carenato, perché c'era tre ruote, faceva schifo. Esatto. Chi usava quel tipo di mezzo, vedi, ha visto, poverino, sai, deve usare quello che non può usare altro. Scusa, queste macchine qui, scusati, do del tu, ma queste macchine qui vengono dall'Inghilterra, dove sono nate, lì ce n'è un'infinità di queste macchinette, anche e soprattutto a tre ruote, dove sono nate dopo la Seconda Guerra Mondiale, da una tradizione che veniva ancora prima della Prima Guerra Mondiale, di mezzi per la mobilità dei disabili. Così, certo, posso capire. Quindi è chiaro che per andare su strade sicure, il genitore che pensa che il ragazzino sia più tranquillo, ma l'incoscienza è la stessa. Francamente, io mio figlio lo metto su una moto. Non volevo dare l'impressione che ce l'avessi con l'ascoltatore di prima, ma il paragone faccia con le moto era totalmente privo di senso. La moto si sa che è un mezzo a due ruote, che hai alcuni rischi. Un motociclista attento a un mezzo che comunque frena, che comunque ha un impianto di ammortizzazione, un telaio omologato, è sicuro, non dovrebbe prendere fuoco in qualche maniera. Poi è mezzo a due ruote, chiaro, va a due ruote. Con i pattini a rotelle si rischia ancora di più. Sentiamo Renato. Renato. Renato. C'è un orologio a cucù che fa rumore sotto. Renato, sento malissimo, dovete richiamarlo. Alberto, buongiorno. Buongiorno dottor Nicoletti. Io volevo dirle intanto complimenti per la sua grande professionalità. Secondo, ha ragione lei, io ho perso una figlia qualche anno fa che è salita con l'amica sulla macchinina il primo giorno che gliel'hanno regalata. Hanno fatto 500 metri e poi si è disintegrata la macchinina prendendo un albero di striscio a 40 all'ora. Quindi dica a quel signore che ha chiamato prima di guardare come è fatto lo sterzo anche se le vendeva, oppure di chiedere ai carabinieri, che purtroppo ne vedono tante di queste cose. Come è accaduto con l'incidente? Guardi, il 26 di dicembre sono andati a salutare degli amici a 1,5 km da casa. È salita con un'amica, era pochi giorni che, o il primo giorno che le avevano dato questa macchina. Quindi non era modificata, era nuova, uscita era, così? No, non era nuovissima, ma era una macchina non modificata. Allora, deve vedere come frenano e deve vedere come sterzano. Se lei tocca un po' più forte lo sterzo, a meno che non sia un pilota o qualcuno che ha la nostra esperienza, anche noi forse avremo delle difficoltà, la macchinina prende la direzione che vuole. Dica a quel signore, prima di provarle le macchinine, prima di esprimersi. Quanto aveva sua figlia che porta in una minicar? 16 anni e mezzo. Mi dispiace, la ringrazio comunque, ci ha dato una testimonianza che dovrebbe far riflettere in più chi ci ha ascoltato, che dice che facciamo gli interessi, non so di chi, semplicemente che abbiamo detto, che le minicar non sono sicure. Alla prossima.